Sound special. The sound of the lion tonight. Ruggito del leone che entro me ruggi, fuggi verso terre selvagge dove errano solo gli orgogli disillusi, e mangia mafia e nutriti di tutti questi flussi, wave sonore, acide e feste, brucianti e sognanti in pozze di MDMA. Bisogna solo stare attenti alla madama, mea dama, baciami e stringiamoci in sogni acidi. Noi fiori selvaggi, guida il fumo ebri in noi, noi che fumo miti nell'era del mito, dritti e dritto, lo sguardo allargano, volto rivolto, sempre ad orizzonte certo, certo viaggeremo se non con te amore con amici, ma di un fiore selvaggio, disintegrante, inutili, infauste cornici. Guida il fumo ebri in noi, noi che fumo miti nell'era del mito, dritti e dritto, lo sguardo allargano, volto rivolto, sempre ad orizzonte, certo, certo viaggeremo, se non con te amore con amici, ma ad un fiore selvaggio, disintegrante, inutile, infauste cornici.